Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, buona domenica e naturalmente buon Ferragosto. Oggi ho chiesto a un lettore di eccezione di darmi una mano per qualche indicazione da darvi sulle letture per questo ultimo scampolo di vacanze. Dico d'eccezione perché si tratta di una persona che non fa di mestiere il letterato, il critico, il giornalista, ma è un uomo d'azione, un imprenditore, anzi è il presidente della più importante associazione imprenditoriale d'Italia, quella di Milano, la Solombarda, e si chiama Alberto Meo Martini. Buongiorno ad Alberto Meo Martini. Buongiorno. Alberto Meo Martini, lei ha fama di essere un lettore molto appassionato, anzi direi quasi onnivoro. Allora, in questo giorno di Ferragosto, che consigli si sente di dare ai nostri ascoltatori? Beh, intanto un libro rinfrescante che ho appena finito di rileggere. E l'autore è Stéphane Audegui, grandissimo giovane scrittore francese, e il libro è La teoria delle nuvole. Quindi sperando che ci diano un po' anche di ristoro. È un libro molto strano, scritto molto bene, molto fluente, ed è un po' la storia del rapporto fra il pensiero e le nuvole. E quindi si incontrano personaggi della storia noti, Goethe per esempio, ma molti personaggi che la storia ha ignorato o dimenticato. Un intreccio di storia e di fantasia guardando il cielo. È un libro notevolissimo. Questo è il primo consiglio per la giornata di Ferragosto. Qualche altra opera di narrativa? Di narrativa più, diciamo, tradizionale. Io ho un libro che confesso di rileggere ogni anno, di un scrittore polacco, Kazimierz Brandis, e questo libro si chiama Rondò, ed è un romanzo di una vita, di un amore che dura tutta la vita, e che parte dal Varsavia occupata dai nazisti e poi prosegue con la crescita dei personaggi. Secondo me è uno dei libri più affascinanti degli ultimi anni, poco noto, come forse è poco noto l'autore. Penso che possa piacere assolutamente a tutti. E poi ho iniziato proprio stamattina un libro che è diventato molto noto, che si chiama I falsificatori, di Antoine Bello, o Bello perché penso sia di origine francese, ed è un libro che ci induce a riflettere se ciò che leggiamo, nei libri stessi ovviamente, e sui giornali, sia o meno reale. Quindi immagino una storia di una società del complotto, appunto I falsificatori, però non è un libro complottista, è un libro che ho letto una quarantina di pagine, che fa pensare, direi uno dei libri più interessanti degli ultimi anni. Senta, in generale, che consigli darebbe nell'approccio alla lettura ai nostri ascoltatori? In vacanza, com'è meglio utilizzare il libro per leggere, per rileggere, il bestseller, la riscoperta, la scoperta? Lei con che spirito si avvicina ai libri in questo periodo? Beh, come ha detto, siccome sono un lettore onnivoro, faccio un misto delle scelte potenziali che lei illustrava. Quindi cerco sempre un libro novità. In questo caso è un libro di un musicista, David Byrne, grandissimo intellettuale, musicista dei Talking Heads, tra l'altro premio Oscar con la musica per un film di un regista italiano che è Alberto Lucci, L'ultimo imperatore. Ha scritto un libro, essendo un appassionato della bicicletta, che si chiama I diari della bicicletta, riecheggiando i diari della motocicletta più noti, ed sono i suoi percorsi in bicicletta, Berlino, New York, Istanbul. Non è scoppiettante come la sua musica, però è una novità. Poi io porto sempre un libro da rileggere e un libro che magari ritengo durante l'anno di non avere il tempo sufficiente per una rilettura attenta, e quest'anno mi sono portato di Philippe Petit, che è un funambolo, quello che ha posto, che aveva teso un cavo d'acciaio a due torri gemelle, causando il forse il più colossale ingorgo della storia degli Stati Uniti. Si chiama Toccare le nuvole, un libro di 6-7 anni fa. Toccare le nuvole, come vede, l'estate mi induce a uno sguardo particolarmente attento alle nuvole. Toccare le nuvole è un immenso tributo alla fantasia, alla creatività e anche alle torri gemelle. Peraltro in questi periodi di così aspro conflitto sul ruolo dei giudici, della magistratura, in questo libro si trova una delle più poetiche condanne, quindi esercizio intelligente del potere giudiziario, perché Philippe T. causa il più grande ingorgo della storia degli Stati Uniti, la gente si ferma a guardarlo a 400 metri d'altezza, e poi aveva fatto questa impresa con documenti illegali, quindi andava condannato, ma il giudice si rende conto che non l'ha fatto per soldi, l'ha fatto per pura voglia di poesia, e quindi dà una condanna meravigliosa, lo condanna per una settimana, se non sbaglio, a fare esercizi di funambolismo a un metro d'altezza per i bambini che sono a Central Park. E quindi è un uso tenue e intelligente del potere giudiziario. Poi porto sempre, non so se quest'anno ce la faccio a leggere, porto sempre un saggio, in questo caso è un saggio sullo sviluppo dell'Africa, sulla storia, so che è molto bello, John Reader, l'Africa. Però ecco, il consiglio che do, siccome io vivo col terrore magari di trovarmi in un luogo dove non posso comprare libri, e quindi la mia valigia ha sempre dei libri, normalmente non li leggo tutti, però il consiglio che è tutto, ma non restate senza un libro durante l'estate. Poi ci sono i libri antidoto, e questo è un suggerimento un po' originale, ci sono libri antidoto nel senso che siamo, questo che dicevo, toccare le nuvole è un antidoto a considerare la giustizia come dispensatrice solo di pene, in un certo senso crudeli, quindi toccare le nuvole è un antidoto al considerare la giustizia solo, tra virgolette, punitiva. E poi c'è l'antidoto, abbiamo avuto i campionati mondiali di calcio, che sono stati molto belli per l'Africa, diciamoci la verità, e però hanno esacerbato un po' gli animi dei tifosi italiani, quindi un libro antidoto all'eccesso di tifo è un libro di Ugo Riccarelli di 5-6 anni fa, che io devo dire porto spessissimo nella mia valigia, anche perché è piccolo, ed è L'angelo di Coppi. L'angelo di Coppi è un modo, sono 10 racconti di Ugo Riccarelli, che aveva scritto un romanzo meraviglioso che era Il dolore perfetto, premio Strega di qualche anno fa. Ecco, L'angelo di Coppi sono 10 piccoli racconti che hanno forse come sfondo, in qualche caso come protagonista, lo sport, ma in maniera lieve, in maniera dolce, in maniera toccante, senza essere mai retorico. Ecco, questo è un antidoto allo sport come violenza, e penso sia un bel suggerimento. Non ha parlato di classici, i classici li rivisita durante le vacanze? Io ho sempre un classico, devo dire, che porto, anzi, diciamo, i classici hanno sempre bisogno, ovviamente, di essere riletti, ma di essere riletti con calma, poi ognuno ha la sua visione dei classici. Certamente io confesso che mi sono portato forse il più classico dei classici, che è l'Odissea in una nuova versione, in prosa tra l'altro, quindi lo leggerò con molta attenzione. Io credo che il periodo ideale per leggere i classici sia proprio l'estate, insomma, per chi va al mare Moby Dick dovrebbe esserci sempre, insomma, mi sembra. Però i classici sì, io credo che siccome d'estate abbiamo il privilegio di poter scegliere, di avere il tempo per poter scegliere, bisogna avere un piccolo scaffale, magari un piccolo scaffale nella valigia, in cui ci sia anche un posto per un classico. Ecco, a proposito del privilegio della scelta, lei appunto legge molto, e ce lo ha confermato, uno dei luoghi comuni sulla lettura è che non c'è mai tempo per la lettura. Lei è un uomo d'azione, presidente di un'associazione importante, imprenditore, il tempo lo trova per leggere se vuole. Assolutamente sì, e le dirò che l'osservazione più frequente che mi fanno i miei colleghi, io poi sono molto impegnato nel campo universitario, nel campo di direzione aziendale, ma dove trovi il tempo di? E io rispondo sempre, ma come fai a non trovare il tempo per legge? E certo che è appunto una scelta, cioè io quindi quasi sempre preferisco leggere un libro che subire la televisione, non dico la televisione, se c'è una cosa che in televisione mi interessa, la vedo normalmente, non sono snob, però non ne subisco qualsiasi cosa, cioè, devo dire che non amo molto uscire la sera, pur amando l'amicizia, quindi abbiamo trovato spesso con amici l'occasione, il modo di scambiarci libri, letture, ma il tempo si trova, è sempre frutto di una scelta. Tenga conto che poi in Italia abbiamo una notevole propensione alla perdita di tempo. È vero. È vero o no? Certo. Questo certo. è anche vero. Beh, anche qualche libro ci fa perdere un po' di tempo. E qualche però. Volta sì, e difatti io prima di suggerire un libro, le racconto un aneddoto che ho letto proprio l'altro giorno, di una mamma che porta un figlio, perché è diabetico, da Gandhi, e chiede un consiglio a Gandhi, e Gandhi dice torna fra 6 mesi. Ma qui io ho fatto la coda, ho fatto chilometri per, e mi dice di tornare fra 6 mesi. E Gandhi dopo 6 mesi, quando torna, gli dice adesso tu dovresti stare 6 mesi senza mangiare lo zucchero, dice al bambino, ma prima ho voluto vedere se sarei stato in grado io di farlo. È un libro, pur non essendo nessuno di noi, perlomeno non io, Gandhi, ecco, deve essere, prima di essere suggerito, dobbiamo essere certi che non ci fa perdere tempo. Quindi io ogni tanto io lamento un eccesso di produzione. Non è vero che tutti i libri sono belli, non è vero che tutti i libri sono utili. Per cui, ripeto, un libro antidoto, un libro classico, un libro d'attualità e un libro che abbiamo tenuto da parte tanto tempo aspettando il momento giusto per poterlo leggere. Però non si può pensare di leggere solo in vacanza. Credo che capisco che possa sembrare un invito retorico, però il tempo per leggere un libro come quello per scrivere un amico si deve trovare sempre. E allora grazie di questi consigli e buona lettura con Alberto Meo Martini. Grazie mille anche a lei. Allora ricapitoliamo i titoli che ci ha consigliato Alberto Meo Martini: La teoria delle nuvole di Stéphane Odeghi, è pubblicato da Fazzi, 300 pagine, 18 euro. Rondò è di Kazimierz Brandis, è pubblicato da EO, 370 pagine, 8 euro. I falsificatori di Antoine Bellot è una novità di quest'anno, è pubblicato da Fazzi, 526 pagine, 19,50 euro. Anche Diari della bicicletta di David Byrne è appena uscito da Bompiani, 374 pagine, 19 euro. Magari torneremo su queste due novità. E poi c'è Toccare le nuvole di Philippe T, pubblicato da Thea, 254 pagine, 6 euro. Africa, biografia di un continente di John Reader, è pubblicato da Mondadori, 698 pagine, 17 euro. L'angelo di Coppi di Ugo Riccarelli, Mondadori, 148 pagine, 7 euro. E poi c'è L'Odissea, quella in prose di Marco Bonfiglio, pubblicato da Fermento, 348 pagine, 13 euro. E poi ci sono naturalmente le edizioni in versi, quelle di Newton Compton, 384 pagine, 7 euro. Quella più sontuosa di Einaudi, contesto greco, 810 pagine, 85 euro. Una ancora più lussuosa con la traduzione di Giovanni Monti, è pubblicato da Nuova Ipsa, 112 euro per 312 pagine. C'è l'audiolibro di Recitar Leggendo, 24 euro. E naturalmente non manca Il confettino. L'Odissea per i ragazzi è pubblicato da Mursia, 96 pagine, 9,90 euro. Continuiamo allora con qualche segnalazione di libro adatto alle vacanze, alle giornate di relax, dopo i consigli che ci ha dato Alberto Meo Martini. Cominciamo con un libro legato proprio al tema dominante di questi giorni, le vacanze. Una visione ironica su questo periodo della nostra vita è un classico dell'umorismo francese di cui è autore Pierre Daninot, un autore che conquistò negli anni 50 una fama mondiale con il libro I carnet del maggiore Thompson. Adesso ritorna con Vacanze a tutti i costi, pubblicato da Edizioni Excelsior, 306 pagine, 16,50 euro, e tradotto da Philippe Dessy. Questa è quasi una serie di sketch di siparietti illustrati da Jacques Charmeau in tema appunto di vacanza, con i quali l'autore mette alla berlina i luoghi comuni, le abitudini inveterate, pregiudizi. Siamo appunto negli anni 70, perché il libro è del 1972, ma da in fondo da allora poco è cambiato. Credo che il libro ci possa dire molto e ci possa aiutare a sorridere su molte nostre abitudini. Per esempio, il libro mette alla berlina proprio l'ansia di molti vacanzieri di occupare a tutti i costi il loro tempo. Non so voi a quale categoria apparteniate, se a quelli che nelle vacanze cercano il riposo, cercano a tutti i costi l'occupazione. Beh, Daninot ci dice che il far niente è una dolce occupazione. Peccato che vi si debba rinunciare durante le vacanze, perché allora l'essenziale è di far sempre qualcosa. Vi auguro di trovare anche il tempo di non fare nulla. Ricorderete che l'anno scorso un libro aveva spopolato sulle spiagge e in tutte le località di villeggiatura, e molti di voi l'avranno letto. Era Zia Mame di Patrick Dennis, un libro degli anni 50 che ebbe in Italia nel 2009 appunto un grande successo. Quello scrittore ritorna quest'anno con un libro dall'aspetto insolito e con un nome diverso. Questa volta si presenta come Virginia Rowans, che è uno degli pseudonimi che usò lo scrittore, il cui vero nome era Edward Everett Tanner, vissuto tra il 1921 e il 1976. Quello che vi vi presento oggi si intitola L'adorabile coppia ed è un libro del 1956. In quell'anno Tanner fu l'unico forse ad avere 3 romanzi contemporaneamente nella classifica dei libri più letti del New York Times: Zia Mame, il libro dell'anno scorso, un altro firmato appunto come Dennis e poi questo, The Loving Couple. Il libro è pubblicato da Mursi a 154 pagine più 154, 17 euro ed è tradotto da Flabby Mella Mazzuccato e da Renato Prinzhoffer. L'indicazione del numero delle pagine vi avrà incuriosito perché in realtà si tratta di 2 romanzi, o meglio di 2 versioni della stessa storia, quella di una crisi matrimoniale vista con gli occhi di lui e con gli occhi di lei. Perciò il libro è doppio: da un lato c'è la copertina rosa con la versione di lei, dall'altro la copertina azzurra con la versione di lui. E capovolgete il libro e ascoltate l'altra campana, e quindi questo libro lo potete leggere alternando i capitoli, o prima leggere i capitoli di lei e poi la versione di lui, oppure potete leggerlo col vostro compagno che legge la sua parte o incuriosito legge la vostra. Insomma, vi potete divertire, vi divertirete anche per lo stile che già avete apprezzato negli altri libri di Tanner. Qui abbiamo una ricostruzione brillante dell'ambiente di New York dove vivono i 2 giovani protagonisti, Mary e John. Anzi, per la verità, essi vivono in un quartiere residenziale esclusivo fuori dalla metropoli, ma New York è la città che naturalmente finisce per diventare anch'essa protagonista del doppio romanzo. Sentite, per avere un assaggio dell'umorismo dell'autore, come il cognato Fred reagisce con invidia, con un misto di invidia e di rassegnazione alla notizia che John ha lasciato Mary, la sorella della propria moglie Alice, prendendo in giro in poche righe il meglio della migliore società newyorkese. C'erano stati 15 anni di abbonamenti ferroviari per Wall Street, di pasti male assortiti da Alice, di conti pagati per i figli d'Alice, procreati se e quando voleva Alice. 15 anni di lega dei genitori e di lega delle donne elettrici, di comitato per una coscienza politica, del gruppo delle madri per lo sviluppo dell'infanzia e dell'associazione di insegnamento ai genitori. 15 anni di sedute psicanalitiche, a cui facevano eco le infinite e sempre mutevoli teorie di Alice. C'erano stati 15 anni di dieta Mayo, dieta Hauser, dieta senza sale, metodo Alexander, sistema Mensendick, finché il dottor Needles, che lo terrorizzava intellettualmente, lo stizziva come professionista e lo disgustava come ciarlatano, era entrato nella sua vita a $25 l'ora. Fred quasi invidiava il marito di sua cognata, un uomo che aveva appena piantato la moglie, nonostante fosse una santa, e un amore di donnina in confronto alla sorella. Insulti come bruto, furfante, marrano, disertore e padre snaturato già gli riempivano la testa. No, era troppo tardi per piantare la famiglia a 42 anni. Avrebbe dovuto farlo 15 anni e un'ora prima, oppure non avrebbe mai dovuto sposarsi. Parte dallo stesso ambiente, cioè quello dei sobborghi di lusso di New York, in questo caso si chiama Herbert Retreat, la raccolta di racconti di Maeve Brennan, un'irlandese americanizzata, autrice di molti acclamati racconti nei suoi anni, che poi chiuse malinconicamente la sua vita nel 1997. Il libro si intitola Racconti di New York, è pubblicato da Rizzoli, 186 pagine, €9,50, ed è tradotto da Ada Arduini. Come scrive John Updike nella postfazione, la Brennan è costantemente allerta, la vista acuta di un passo, era attenta alle briciole della realtà, a quanto udito per caso, visto di sfuggita, ipotizzato, che costituisce il passatempo più economico di una donna di città dal temperamento solitario. E infatti vediamo nel primo racconto l'anacronismo, la lenta ma implacabile trasformazione della vita di Liza, che è ricca, viziata e capricciosa, e che proprio per un capriccio determinato dalla voglia di fare un dispetto e di suscitare l'invidia delle proprie vicine vedrà cambiare non in meglio la propria vita. Qui non c'è l'ironia di Tanner, ma una capacità di rappresentare quasi la cattiveria dei rapporti sociali dettata spesso dall'interesse o dal conformismo. Sentite per esempio il senso di soddisfazione quasi di onnipotenza che prova Leona, una ragazza che agguanta davvero un buon partito. Leona faceva la segretaria in una banca quando aveva conosciuto Tommy Finch e non si era mai veramente ripresa dall'euforia incredula che aveva provato quando l'aveva sposato. In segreto, Herbert's Retreat le faceva ancora lo stesso effetto di quando l'avevano portata a vedere la casa poco prima del matrimonio. Non aveva mai scordato la prima volta che l'aveva vista, quando Tommy aveva imboccato la stretta strada privata che dall'autostrada si inoltrava snodandosi verso il fiume. Le 39 bellissime case che collegava erano state costruite qua e là, in maniera casuale, 200 anni prima, in una splendida e verde radura che restava selvatica e lussureggiante, fatta eccezione per i prati curatissimi e le bordure che i residenti si erano ritagliati per sé. Leona non aveva mai sentito parlare di Herbert's Retreat fino a quando non aveva conosciuto Tommy, ma si era subito affezionata in maniera intensissima. Adorava che fosse una comunità riservata, protetta e rigidamente esclusiva. Nei suoi primi giorni là, era stata timorosamente felice del fatto che i vicini di Tommy l'avessero accettata con tanta facilità. Quando si sistemò, il suo orgoglio si indurì. Cominciò a dare per scontata la propria presenza al retreat e a sentire di appartenervi per natura, non solo perché vi era stata ammessa. Però in fondo al cuore, più in profondità rispetto alla sua dipendenza da Charles, nutriva la paura irresponsabile e irragionevole, sia pure quasi sempre accuratamente soffocata, che un giorno qualche lontano parente di Tommy venisse a portarle via la casa. Non poteva accadere, e lei lo sapeva, era sua di diritto, ma quei diritti parevano sfuggirle di mano, nonostante li enumerasse e li conoscesse bene. Un bel libro italiano, e si legge in poco tempo, è Martini di Pietro Grossi, pubblicato da Sellerio, 64 pagine, 9 euro. Lui è uno degli autori più interessanti della sua generazione, a 32 anni, si rivelò con Pugni. Qui siamo ancora negli Stati Uniti e incontriamo due coetanei, un giornalista alle prime armi e uno scrittore invece già affermato, Martini appunto. Dall'incontro tra i due nascerà un lungo rapporto difficile segnato dall'improvvisa svolta nella vita dello scrittore di cui Frank, il protagonista, riesce a riscoprire le tracce e a cogliere le motivazioni profonde. Un libro che mette alla berlina vizi e tic dell'Italia d'oggi e quindi si può leggere utilmente in questo periodo è La casta dei radical chic, il libro che farà tremare i salotti italiani. L'autore Massimiliano Parente, saggista, collaboratore del giornale, ma non giornalista, come si vanta lui stesso di non essere. Newton Compton, 276 pagine, 12,90 euro. L'idea dello scrittore buono l'ha resa interessante ma discutibile. Non credo che in realtà nessun salotto tremerà, ma chi ne fuori si divertirà a vedere messi alla berlina molti personaggi, molti vizi, molti intrecci, molti conformismi della vita culturale italiana. Per apparire il più disinvolto possibile, Parente ricorre spesso al turpiloquio, altrettanto frequentemente gioca sulle parole o addirittura sui nomi delle persone, e questo forse rischia di far perdere spessore al lavoro che andrebbe fatto, quello di smascherare lo spirito di corpo e la conseguente omologazione che domina in molti ambienti. Parente è impietoso e riguardoso, mette alla berlina molte manifestazioni letterarie, per esempio lo Strega oppure la Fiera della Media e Piccola Editoria di Roma. Ma è anche appassionato, per esempio sentite queste righe su quelli che secondo Parente sono i requisiti, apparentemente impossibili o rarissimi, perché un libro diventi veramente importante. Restano le opere che hanno una densità estetica tale da non esaurirsi in una lettura da treno. Restano le opere progressive rispetto alla letteratura, che includono il passato e muovono un passo verso un baratro ulteriore, imprevisto, ingiudicabile, che sono al contempo tradizione e avanguardia, che sono imprevedibili e spesso fastidiose, che non si collocano sull'orizzonte di attesa di nessuno, che non vi tolgono qualcosa quando la leggete, ma vi danno più di quanto siete in grado di capire adesso. Non è un'idea difficile da recepire, è come nella scienza. Non resterebbe oggi chi inventa la ruota o la lampadina, o il telefono, o la manina per grattarsi la schiena, o le supposte di glicerina. Se invece volete immergervi in una lettura particolare, quella dei fumetti o come si dice adesso della graphic novel, vi segnalo alcuni titoli di Rizzoli. Il primo è Cattivi soggetti, il noir italiano a fumetti di Eraldo Baldini, Busta, Piero Colapricco, Loriano Machiavelli e Wuming 4, coi disegni di Davide Fabbri, Matteo Buffagni, Michele Benevento, Sergio Ponchione e Lia Bonetti. È curato il libro da Daniele Brolli, 190 pagine, 18,50 euro. Queste sono 5 storie che ruotano intorno a quello che oggi in Italia è l'estraneo per definizione, colui che raccoglie in sé il senso della minaccia crescente che altera la stabilità, cioè l'immutabilità del nostro mondo, sia l'extracomunitario. Ho letto dalla prefazione di Daniele Brolli. La ragazza dietro al banco mescolava birra chiara e 7-Up, e il sorriso da fossette denti era da pubblicità. come i visi alle pareti di quel piccolo autogrill, mentre i sogni miei segreti li rombavano via i tir. Francesco Guccini non ha bisogno di essere presentato, è qui perché è coautore del libro che adesso vi presento, Storie dello spazio profondo, di cui l'altro autore è Bombi, lo pseudonimo di Franco Bombicini, che ricorderete come l'autore di Sturmtruppen. Il libro è pubblicato ancora da Rizzoli, 17 euro, 240 pagine. Si tratta di storie di fantascienza che risalgono al 1969, che Guccini consiglia di leggere a temperatura ambiente con accompagnamento di alcolici di vario tipo, come facemmo noi quando le abbiamo realizzate, e quindi sono storie da leggere anche per il clima dell'epoca al quale ci riportano e per la ricchezza delle immagini e del linguaggio. Tra sbiriglioni e pazzorilli la fantasia lessicale è debordante, nota infatti Andrea Plazzi nella sua postfazione. Ho fatto un sogno, ho visto della gente si occupava degli affari miei e mi diceva stai facendo male e mi diceva ti devi vergognare. Ho fatto un sogno di Vasco Rossi, e anche un graphic novel, sempre di Rizzoli, 112 pagine, 14,90 euro. Il libro è frutto di una squadra che ha voluto trasformare la canzone in un cortometraggio d'animazione e in una storia a fumetti. E a questa impresa si sono dedicati Barbara Roganti come sceneggiatrice e drammaturga, Francesco Merini come regista, Rosanna Mezzanotte e Luca Genovesi come disegnatore, Arturo Bertusi, che è il direttore del progetto, che si ispira a Fahrenheit 451. E con questo ringrazio Vittorio Mussini, redazione, e Pietro Lacorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro chiocciolaradio24.it, e con questo vi do appuntamento la settimana prossima.